24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui a concludere la settimana di 24 mattino in questo venerdì 26 novembre. Cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Oggi nel sondaggio parliamo di canone RAI, il canone della RAI. E il ministro Romani ha tirato fuori un'idea che non è nuova: legarlo alla bolletta della luce. Avete un contratto della bolletta della luce, come credo quasi tutti gli italiani, pagate il canone RAI. E se non avete la TV, siete voi che dovete dimostrare che non avete la TV. L'inversione dell'onere della prova, questo per contrastare una delle tasse più evase in Italia. Che ne pensate? È una giusta decisione che arriverà a breve, pare? E che ne pensate? Dovete esprimerlo con il sondaggio radio24.it, bianco o nero, ci trovate nell'home page e noi ne parleremo più avanti alle 8.30. Ora i giornali in edicola. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In primo piano. Venerdì 26 novembre sono le proteste degli studenti che per il secondo giorno consecutivo conquistano i titoli principali dei giornali. Gli studenti occupano i monumenti per il Corriere, gli studenti fermano la riforma per Repubblica. Ma ovunque le foto, non so, chi a Torino della Mole Antonelliana, chi a Pisa della Torre di Pisa, il Colosseo occupato temporaneamente, è davvero una protesta che dilaga. Cito l'apertura invece del Sole 24 Ore: successo per l'asta del Tesoro, forte richiesta per 10,5 miliardi di bot. Questa è l'apertura del Sole. Ma nelle mie consuete segnalazioni, intanto, ricordate, ieri abbiamo avuto il sindaco di Sappada in Veneto, ma che vuole andare in Friuli come i suoi concittadini. E questa vicenda, voi pensate che sia una vicenda marginale? Oggi conquista due pagine di giornali. La prima sul Corriere della Sera, Giuseppe Sarcina racconta proprio la storia di Sappada, il paese dei campioni di sci che vuole fuggire dal Veneto. Vogliamo più piste e un cinema. E il Friuli ha detto sì. Giuseppe Sarcina è andato a Sappada, ha intervistato anche il nostro sindaco Alberto Graz, che è nostro ospite ieri. E sul giornale, comuni secessionisti al via 10 referendum. Ieri si sono trovati a Milano alcuni sindaci di questi comuni di frontiera di regioni, spesso di regioni al nord, al confine con regioni a statuto speciale, e che quindi sono anche un po' gelosi, invidiosi dei privilegi, degli statuti speciali dei paesi a loro affianco. Comuni secessionisti al via 10 referendum verso la nuova geografia del nord, è Vincenzo Pricolo che ne racconta pagina 18 del giornale. Ma poi ragazzi, qui la vicenda Emilio Fede e la scazzottata subita dal direttore del TG4 da parte del patron dell'Amaro Giuliani è una vicenda che ha scatenato le penne gossipare e della cronaca di mezzi quotidiani. Oggi ci sono paginate ovunque, Fede Giuliani sul ring della terza età, e ne parla, ne scrive Paolo Colonnello, che è uno dei giornalisti di giudiziaria più arguti, più intelligenti e più bravi del panorama giornalistico. Paolo Colonnello da Milano, pagina 25 della Stampa. Col patron dell'Amaro che ha chiesto scusa per i pugni, è stato uno sfogo, una vicenda per una situazione che aveva provocato il mio cliente, così dice l'avvocato Massimo Di Noia. Ma Fede ha detto: altro che scuse, io lo querelo. Il giornale, le due pagine centrali, 30 e 31, Fede picchiato per una donna. Qui si vengono a scoprire gli altarini. La vicenda sarebbe questa. La giovane, molto giovane moglie del patron dell'Amaro Giuliani, Ilenia Iacono, 38 anni, avrebbe avuto una liaison con Stefano Bettarini, l'ex marito della Ventura, e Emilio Fede, secondo dei gossip, avrebbe avuto la colpa di presentare Stefano Bettarini alla moglie di Giuliani, che insomma Giuliani e Fede sono amici da tanto. Ed ecco qui che infatti Bettarini, contattato dal giornale, dice: per carità, non commento la notizia, dico solo che è falso che io ero a quel tavolo con Emilio Fede, perché tutti si sono chiesti allora perché non se l'è presa con Bettarini. No, io non c'ero a cena, ma se c'ero difendevo io il direttore. Un'intera pagina sul Secolo XIX, gelosia e love story dietro i pugni a Fede. E ora Giuliani chiede scusa a Gian Germano Giuliani e anche Gianni Barbacetto, un'altra grande firma di cronaca giudiziaria italiana. Sul Fatto Quotidiano un'intera pagina: Bunga Bunga e Cazzotti, fenomenologia di Emilio Fede, picchiato al ristorante ma indagato a Milano. Io trovo tutto abbastanza incredibile, ma anche molto spassoso. Sono pagine che magari uno, per affrontare il weekend con un sorriso sulle labbra, un po' un animo gossiparo, se volete, trovate tante pagine sulla vicenda che ha coinvolto Emilio Fede e il patron dell'Amaro Giuliani sui giornali. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo da dove? Beh, dalle proteste degli studenti. In primo piano. Per il secondo giorno consecutivo sui giornali trovate le foto delle manifestazioni sempre più dilaganti da parte degli studenti e altri nei confronti contro la riforma dell'università. Questa è l'apertura di tutti i giornali, anche il Sole 24 Ore, pagina 5, governo sotto, slitta la riforma Gelmini. Tanto per dire, la prima pagina del Manifesto, vedrete la Torre di Pisa con uno striscione che pende, no alla riforma, il Colosseo con qualche fumogeno, la Mole Antonelliana sullo sfondo un'occupazione. E c'è anche Vauro in prima pagina che fa la vignetta sugli studenti che buttano dalla Torre di Pisa al grido di giù dalla torre chi? Il ministro Gelmini. Il bel paese, questo è il titolo del Manifesto. Insomma, dilaga la protesta, lo strumento più utilizzato è Facebook per coinvolgere più studenti possibili al grido di occupiamo i monumenti. D'altronde non può essere casuale che ieri contemporaneamente tutti i più importanti monumenti delle varie città siano stati occupati temporaneamente dalle proteste. Il Sole 24 Ore intervista anche il rettore della Sapienza Luigi Frati, il ricercatore Marco Merafina, uno dei capi dei responsabili dei ricercatori, che dice no alla riforma, mentre il rettore Frati dice sì alla riforma, perché poi il rischio è che si dia tutta l'attenzione alle proteste, ai politici che salgono sui tetti, e a proposito alle 8:20 sarà nostro ospite per l'intervista Antonio Di Pietro. E poi non si capiscono neanche i motivi delle proteste. Sta di fatto che il ministro all'istruzione Maria Stella Gelmini fa due interviste, una breve al Corriere e una ben più lunga a Michele Brambilla sulla Stampa, pagina 5. Bersani sbaglia a salire sui tetti, così legittima solo i violenti. Tanto la Gelmini preoccupata dice: sono davvero preoccupata, non vorrei che tutto degenerasse, che qualche giovane finisse con il farsi male. Questa riforma è nata dopo 2 anni di dibattiti politici, adesso salta fuori che la riforma uccide il diritto allo studio, ma stiamo scherzando, chiede il ministro. E poi posso farle un esempio? Per molto tempo l'obiezione principale della sinistra era che mancava una copertura finanziaria. Adesso che il governo ha stanziato 1 miliardo di euro, l'opposizione dovrebbe prendere atto che almeno quel problema è risolto. Invece niente. La protesta, dice, è una protesta di minoranze, certo, comunque è una protesta che c'è, non lo nego, ma è una protesta che mi stupisce molto. La riforma introduce criteri di merito nell'assegnazione delle cattedre, evita le parentopoli, abolisce i rettori a vita. Lo sanno questi studenti che in Italia abbiamo rettori in carica da 20-25 anni? Siamo una Gelmini che difende la riforma e dice forse si sta manifestando, ma non si capisce neanche bene perché. Di tutt'altro tenore è Susanna Camusso, la neo leader della CGIL, intervistata dall'Unità, a pagina 12, la intervista al vice direttore Rinaldo Gianola, e la Camusso dice: studenti operai dicono che il governo è arrivato alla fine. Susanna Camusso, che domani guiderà a Roma la sua prima manifestazione da segretario generale della CGIL, dice: sono queste manifestazioni il segno di un paese che non tollera più le illusioni e le menzogne di Silvio Berlusconi. Iniziative giuste e pienamente condivisibili. L'intervento della Gelmini sull'università deve essere contrastato fino al suo ritiro. Vedete, le posizioni anche degli editorialisti sono molto diverse. C'è un Ezio Mauro, direttore di Repubblica, in prima pagina, che fa un editoriale dal titolo «Il ritorno dei cittadini». Ci avevano detto che c'era solo il popolo, il dialogo diretto e permanente col leader. Ecco che tornano invece i cittadini. L'irruzione degli attori sociali sulla scena rompe la solitudine del calcolo politico. E mentre Vittorio Feltri in prima pagina del giornale che titola così: studenti in piazza, asini sui tetti, Vittorio Feltri dice: noi simpatizziamo con gli studenti che protestano perché riconosciamo in loro la stessa ingenuità e stupidità che ci animava nel cosiddetto 68. Oggi come allora si vaneggia, volevamo la scuola e l'università di massa, persuasi che avrebbe riscattato le classi più deboli, reso accessibili ai poveri le più alte sfere della cultura. Al grido di siamo tutti uguali spingemmo affinché fosse assicurato il presalario agli universitari con buoni voti. Abbiamo ottenuto l'istruzione di massa. Però, dice Vittorio Feltri, questo è un danno, ma comunque dice li riconosciamo agli studenti lo stesso vaneggiamento di allora. Invece è deprimente constatare che i ragazzi sono manovrati da tromboni della conservazione travestiti da rivoluzionari. L'immagine di Bersani e dei Finiani sul tetto della Sapienza è il simbolo della decadenza inarrestabile dell'università e della politica che l'ha conciata così. E ci sono le foto di Bersani e Di Pietro, i primi che si sono arrampicati sui muri. Insomma, comunque la pensiate, questo è un tema che sta scatenando dibattito, sta di fatto che tra l'altro la Gelmini nell'intervista al Corriere apre una mozione a un emendamento dell'Italia dei Valori per quel che riguarda la riforma che è slittata a martedì. E, come dire, il clima politico che si respira è un po' sullo sfondo di tutto questo. Berlusconi che dice le urne ora è da criminali. Il secondo retroscena di Repubblica Quotidiano di Francesco Bei, ci sarebbe anche uno sfogo di Berlusconi contro i leghisti. Il motivo è il diniego da parte dei leghisti delle regioni tipo Cota e Zaia, Piemonte, Veneto, di prendersi i rifiuti di Napoli. Si mettono in mezzo, non vogliono dare una mano, io li conosco bene. Avrebbe detto Berlusconi, questi sono i segnali per farmi capire che non posso fare accordi con Casini, o si va a votare o saranno i leghisti a sfilarsi. Sta di fatto che ieri Casini si è incontrato con Confalonieri, il presidente di Mediaset, come scrivono tutti i giornali. Casini a Confalonieri: non posso aiutare Silvio. Questa è la sintesi dell'incontro per il Corriere della Sera con Paola Di Caro. Insomma, è la politica che si muove un po' nel tentativo di avvicinamento quotidiano al D-Day, il 14 dicembre, il giorno di fiducia e sfiducia. E mentre ci sono queste manovre per cercare chi di tirare da una parte e dall'altra il parlamentare che deve votare, chi deve convincere di passare da una parte all'altra dello schieramento per votare il 14, manovre e retroscena della politica, ci sono anche i cosiddetti colpi bassi o comunque le inchieste giornalistiche che cercano di mettere in difficoltà qualche politico. Bondi, lo sapete, il ministro della cultura da giorni è nel mirino del Fatto Quotidiano e anche del Corriere, tanto che il ministro ha querelato sia il Fatto sia il Corriere. Il Fatto ha tirato fuori la vicenda delle consulenze, dei lavori dati al ministero all'ex al figlio della compagna di Bondi, all'ex marito della compagna attuale di Bondi, e poi questo premio all'attrice bulgara Michelle Bonev dato a Venezia, secondo il Fatto Quotidiano un premio totalmente inventato ad hoc per gratificare un'amica di Silvio Berlusconi che ha realizzato questo film Goodbye Mama. Oggi il Fatto Quotidiano ci ritorna con un'intera pagina. Malcolm Pagani ancora: bye bye spettatori, goodbye mama, bye bye spettatori. In Bulgaria e in Italia nessuno ha visto il film premiato da Bondi. Sognava l'Oscar la produttrice attrice Michelle Bonev, ma nessuno ha distribuito la pellicola. E tra l'altro il Fatto Quotidiano va con una gran rentrée a intervistare Agostino Saccà. È vero, la aiutai e poi provò a intimidirmi. Agostino Saccà risponde al primo squillo, racconta tutto, l'incontro iniziale e l'ultimo. Sapevo che mi avreste chiamato, sono qui e chieda tutto. Sono passati quasi 10 anni, Michelle me la presentò a Riedo Braida, un dirigente del Milan. Erano molto amici, forse di più, non lo chiesi, devo dire la verità che neanche mi interessava molto. Una cena, un bicchiere, raccontò la sua infanzia molto tragica in Bulgaria, sotto la dittatura, e io l'ho aiutata. Poi Agostino Saccà che dice: guardi, io non covo rancori, vivo in affitto 65 metri quadri, ma nessuno è innocente in Rai, non si può essere potenti e innocenti allo stesso tempo. E comunque, eccolo qui, Agostino Saccà da Taurianova, racconta perché in TV rischi di perderti, il comando confonde i confini, altera le proporzioni, racconta di questa amicizia con Michelle Bonnev, l'avevo aiutata in ogni modo, prima l'ho segnalata a un amico editor della Mondadori per il suo libro, poi gli ho permesso di fare un provino per il dopo festival sanremese del 2003, lei mi implorava se mi vedono in Bulgaria a Sanremo almeno faccio vedere a mio padre che non sono finita su una strada, una segnalazione, un aiuto. Al che la domanda di Malcolm Pagani, ma c'è stato qualcosa di più? Vuol sapere se eravamo amanti? Un gentiluomo non risponde mai a queste domande. E comunque poi un rapporto finito male, Agostino Sacca dice, cercò anche poi di intimidirmi. Anche Libero, però, ora anche Libero, attenzione, un giornale certamente vicino al governo, dopo i parenti, l'attrice bulgara, ora Bondi rischia sul serio, il ministro è ormai isolato, questo anche Libero, Enrico Paoli fa l'intera pagina 16 sulla vicenda di Bondi, per la verità sulla sprecopoli del cinema Libero fa anche una pagina contro Italo Bocchino. Che cinema paghiamo i film di Lady Bocchino, la moglie di Bocchino, Gabriella Buontempo, produttrice. In 10 anni la sua casa di produzione ha ricevuto oltre 2,6 milioni di contributi pubblici per pellicole, tra cui molti flop. Per esempio Mi sei entrata nel cuore come un colpo di coltello, con Gaia De Laurentiis e Gianni Ippoliti, questo titolo con un misero incasso ai botteghini. Oppure La bruttina stagionata, diretto da Anna Di Francisca, un film ricavato dall'omonimo bestseller di Carmen Covito, una pellicola coprodotta con Rai 3. Oppure Fatti della banda della Magliana di Daniele Costantini, interpretata da Francesca Pannofino e Leo Gullotta. In questo caso il contributo pubblico è consistito nella coproduzione e nella distribuzione da parte dell'Istituto Luce. Insomma, vari soldi, 2,6 milioni per Libero, finiti alla moglie di Bocchino che è produttrice. La politica si interroga anche per il ritorno di Romano Prodi. È tornato Romano Prodi. Ieri è andato a una convention del PD. Arriva Prodi e il PD prova a rincuorarsi. Il professore dice un ritorno, leggo dalla Stampa pagina 11, ma va, faccio il nonno. Prodi torna? Con questa inquietante domanda vi lascio al traffico. In primo piano. Eccoci qui alle 7:47 minuti dagli studi di Milano, una Milano sotto la neve, sta nevicando, questo mi mette allegria, anche se creerà magari qualche disagio, ma insomma, eccoci qua. E allora, come dire, trovate molto sui giornali della campagna che Avvenire sta portando avanti, non è davvero escluso che lunedì ne parleremo, perché io ve l'avevo citata giorno dopo giorno questa vicenda, che ora è diventata una vicenda che è sulle prime pagine di tutti i giornali. L'Avvenire, dopo che Fazio Saviano hanno ospitato Mina Welby e il papà di Eluana Englaro, Beppino Englaro, hanno fatto questa campagna fateli parlare, cioè fate parlare, date uno spazio anche a coloro che sono i cosiddetti pro-life, tutti i parenti delle persone, di malati in stadi anche molto gravi, ma che decidono fino all'ultimo di combattere con i loro congiunti. Fateli parlare, ora il caso è esploso perché il CDA della RAI, il Consiglio di amministrazione, ha detto sì, dovrebbero avere uno spazio anche loro, e Fazio Saviano ha detto è inaccettabile questa posizione perché noi non abbiamo fatto nulla per la morte e dunque non vediamo perché dovremmo fare un qualcosa per la vita. Inaccettabili, questo è il titolo dell'editoriale del direttore di Avvenire Marco Tarquinio in prima pagina oggi, gli uomini davvero liberi sono quelli che quando si rendono conto di aver commesso un errore lo riconoscono, quelli che non hanno bisogno di un'intimazione per rimediare uno sbaglio, quelli che non fanno finta di sentire solo gli applausi, quelli che dall'alto di uno straordinario successo sanno chinarsi sulle storie, sulle voci degli impresentabili e dei politicamente scorretti e le ascoltano. Anche Roberto Saviano, loro e Fazio sanno di vittorie sconfitte, sanno di presunti vincitori e presunti sconfitti, sanno di speranza e di disperazione, sanno come raccontare, come elencare. Bene, benissimo, male, malissimo. perché della vita che si fa malata, ma malata per davvero, duramente malata, fingono di aver saputo solo la disperazione e il rifiuto. Fingono di non sapere di Mario, Fulvio, Max, mamma Lucrezia e papà Ernesto, di Maria Pia e suo marito. Fingono di non aver mai sentito di Stefano e Chantal, di Moira, Angelo, Simone, Rosi, Susi. Insomma, sono i parenti dei malati che combattono. Avvenire, insomma, rilancia, fateli parlare. Oggi il direttore generale della RAI, Masi, si incontrerà con il direttore di Rai 3, Ruffini, per cercare di dipanare questo problema. È un'intera pagina anche sul Corriere. CDA RAI, Fazio, Saviano diano voce ai pro vita, ma loro rispondono: è inaccettabile. E c'è anche un'intervista a Fioroni, del PD cattolico, che dice: sono profondamente amareggiato. Avevo fatto una lettera appello firmata da 32 parlamentari cattolici per dare voce appunto a alcuni parenti dei cosiddetti pro-life, per la vita. Sarebbe terribile che migliaia di famiglie italiane che scelgono per i loro malati cronici o terminali la strada della vita non ottengano uno spazio in trasmissione. E anche il Foglio: no, coi pro vita non si può. È il titolo di un editoriale, uno degli editoriali sul quotidiano di Giuliano Ferrara. Fazio e Saviano non vogliono repliche a Mina Welby e Englaro. E anche su Repubblica: Fazio, Saviano contro il CDA Rai, no alla replica dei pro-life. È un tema che da qui a lunedì ancora reggerà, perché lunedì è l'ultima puntata di Vieni via con me. Ancora sui rifiuti trovate i rifiuti. Oggi, tra l'altro, Berlusconi, secondo Repubblica, secondo Concita Sannino, tornerà a Napoli, si riaffaccerà sulla polveriera rifiuti. Gli hotel già preludono e dicono: faremo una class action contro non so bene chi, contro credo il governo per la vicenda rifiuti. Il presidente della regione Piemonte, Cota, intervistato dalla Stampa, dice: direi di no anche se pagassero lo smaltimento, direi di no anche se fosse una emergenza del Veneto, ma intanto la premessa è questa: al nord non si verificherebbe una situazione analoga. Così Cota, il presidente della regione Veneto. Sapete che sono nel mirino le regioni, soprattutto quelle leghiste, che hanno detto di no. E allora mi sono tenuto per ultimo la vicenda del canone della RAI, che il ministro Romani, rispolverando una vecchia idea, ha detto: vogliamo legare alla bolletta della luce. È il tema del nostro sondaggio. Avete una bolletta elettrica, la pagate? Pagate il canone RAI. E se non avete la TV, dovete dimostrarlo voi che non avete la TV. Perché per contrastare l'evasione l'obiettivo è quello di automatizzare, legare il canone RAI a chi ha un contratto di bolletta elettrica. Il canone in bolletta non migliorerà la RAI, è un duro editoriale di Orazio Carabini sul Sole 24 Ore, la chiama una poll tax per la TV. La svolta di Romani, che ha un qualcosa di odioso: usare la bolletta della luce per riscuotere le tasse equivale a dire respiri, quindi paghi il canone. Ma le critiche anche su Libero, in prima pagina: Facci, voglio concludere con Facci, eccolo qua, pagherai, che ideona, era proprio il momento economico e politico ideale, proporre il pagamento automatico del canone RAI per chiunque abbia un semplice contratto di energia elettrica, cioè per chiunque, appunto. Al Ministero dello Sviluppo Economico non hanno via di mezzo, sono pagati a loro insaputa, o pretendono che a nostra insaputa paghiamo noi. È un temerario Paolo Romani, ha ripescato questa sua idea fissa, anche se una parte della maggioranza non è d'accordo. Chi non possiede un televisore dovrebbe essere lui a dimostrarlo, in versione dell'onere della prova, molto garantista. Senza dimenticare che già oggi dovrebbe pagare il canone RAI chiunque possegga anche un iPod, un videofonino, una macchina fotografica digitale, uno schermo di computer, perfino un videocitofono. In Italia ferve il dibattito. Avevamo solo il problema di finanziare tutto questo carrozzone, la RAI, molto popolare, molto deregulation, molto governo del fare. Oggi Filippo Facci in prima pagina di Libero. Il GR 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Saluto il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Buongiorno, benvenuto Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, che ci fa sui tetti? Perché salire sui tetti? Per manifestare solidarietà a coloro che sono finiti sui tetti perché non li ascolta nessuno, e soprattutto per far sapere all'opinione pubblica che questo provvedimento, questa legge di riforma delle università che si sta facendo è un bluff, perché non contiene fondi, non contiene riforma. E cosa può fare in un paese democratico una componente dell'opposizione se non appunto fare un'opposizione senza sconti? Però per esempio il ministro Gelmini oggi sul Corriere della Sera dice: apriremo a, per esempio, e perché no, all'emendamento dell'Italia dei Valori che vieta di chiamare nelle università i parenti fino al terzo grado. Discuteremo di questo, e perché no? Perché vogliamo andare contro la parentopoli. Che ne pensa di questa apertura? Beh, innanzitutto bisogna vedere come apre, se a parole e se a fatti. Voglio ricordarvi che sono stati presentati 450 emendamenti, e quando ti dà uno zuccherino e ti frega il sangue non è che tu sei contento lo stesso. È un po' come la storia che quando si dice avevano organizzato 10 rapine e ne hanno fatto soltanto 5. Quindi lo considera uno zuccherino. Senta, ma vede anche di buon occhio queste manifestazioni, non so, occupare il Colosseo, occupare la Torre di Pisa, occupare i monumenti italiani? Io credo che sia riduttivo e troppo semplicistico dire manifestazione che occupano. Stiamo parlando non di delinquenti, ma di cittadini italiani che vanno dagli studenti agli insegnanti, alle famiglie, ai precari, ai ricercatori, a un'intera categoria che rappresenta il nostro futuro e il futuro dello sviluppo del nostro paese, che, preso atto di questa legge, vogliono segnalare all'opinione pubblica di non lasciarsi infinocchiare dall'informazione di regime che fa credere che questa sia una riforma. Non è una riforma, è una deformazione della cultura, dell'università, della ricerca, ed è un impedimento a chi vuol costruirsi un futuro a poterlo fare. Lei pensi che vengono equiparate, si è riuscito ad equiparare le cosiddette università telematiche, quelle che si fanno via internet, quelle sì, che si comprano tanto al chilo, le lauree, con la Bocconi di Milano. Ecco, a queste situazioni non si può arrivare, perché poi le migliori intelligenze se ne scappano e se ne vanno via. E questa è la ragione per cui io mi permetto di dire: non guardate e non accettate voi dell'opinione pubblica l'elemento folcloristico. Questi occupano, questi non occupano, questi sono disperati che invocano aiuto. Però qualcuno potrebbe dire: sono invece minoranze rumorose, invece magari la maggioranza è a favore ma non protesta. Lo diceva pure Mussolini quando chiuso nel suo bunker, o quell'altro, quando chiuso il loro bunker, diceva: sono minoranze. Oppure se lo ricordo quando il portavoce di Saddam diceva: no, abbiamo vinto tutto, qui c'è soltanto qualche scaramucci che sta fuori, a bandiera delle battute atroci. No. Cosa voglio dire? Che non c'entra niente con questa storia. Cosa voglio dire con questo? Quando un'intera categoria, quando sono minoranze tutti gli studenti italiani, sono minoranze tutti gli insegnanti, i precari, i ricercatori, il mondo della scuola, non mi pare che sia l'insegnante, mi pare che sia tutta la categoria. Dove stanno queste masse di persone che inneggiano a questa riforma? Non stanno da nessuna parte, se non quei quattro gatti all'interno del ministero. Lei dice. Senta, le chiedo, per il 14 dicembre io ho il sospetto, ho l'idea, che in realtà non ci siano così tante persone che vogliono far cadere la legislatura, magari anche quelli che lo dicono di volerlo fare. C'è la legislatura del vitalizio, per esempio. Quanti vogliono mantenere il loro posto per arrivare a 5 anni al vitalizio? 99%. E allora, ecco, voglio dire questo, ma non è una buona ragione per umiliare, offendere gli italiani. Lì i parlamentari ci siamo andati per fare gli interessi degli italiani. Noi dell'Italia dei Valori, senza se e senza ma, vogliamo assolutamente tornare alle urne, per un motivo molto semplice: perché il 14 dicembre ci sarà due voti più o due voti in meno, a seconda di chi è riuscito a comprare nella notte il peone di turno e al migliore offerente. E quindi anche il 15 dicembre, sia che vince uno sia che vince l'altro, avremo sempre un Parlamento ostaggio di un ricatto continuo, di una compravendita dei maiali continua. C'è il calciomercato, dice. Il calciomercato già è una cosa nobile, questo è il mercato delle vacche. In una situazione di questo genere, per il bene del Paese, si deve prendere atto che da qualche mese, finalmente, una parte della maggioranza ha capito quel che io dico da 15 anni, e cioè che abbiamo a che fare con un governo, il qui presidente del Consiglio, è andato lì per motivi suoi, personali, per sistemare gli affari suoi, e solo quello si occupa, e solo di quello si occupa. E che quindi degli italiani se ne frega. In una situazione di questo genere bisogna ritornare alle urne e dire agli italiani: assumetevi la vostra responsabilità se volete continuare ad affidarvi a questo signore, oppure se volete affidarvi a un'altra realtà. E nell'altra realtà trovate una realtà di centrosinistra e una realtà di centrodestra. Scegliete secondo coscienza, ma liberatevi di un'anomalia. L'ultima domanda è questa. Luigi De Magistris è indagato, secondo il codice dell'Italia dei Valori dovrebbe essere estromesso dal partito, perché non è così? Non è estromesso dal partito se è indagato, e se viene dovrebbe rimettersi. No. Il codice dice esattamente questo: se viene rinviato a giudizio non può assumere incarico di governo, e questa è una regola che noi vorremmo che diventi legge. Le spiego in tre battute. Prima, ma anche Travaglio ha detto si dovrebbe dimettere De Magistris. Lui, una cosa è che si sarebbe felice se si dimettesse. Per lui gli farebbe un favore a De Magistris, perché a questo punto inneggia se stesso. Io infatti così ho fatto, ma le nostre regole, e che vorremmo sia legge, sono le seguenti. Primo, coloro che sono condannati non devono fare più i parlamentari. Primo. Secondo, che loro che sono rinviati a giudizio, come De Magistris, per un reato di vorrei precisare, De Magistris non ha rubato niente a nessuno, è stato passando le conseguenze che ha toccato i potenti. Quelli non possono assumere incarichi di governo. Okay. Terzo, coloro che invece sono sottoposti a indagini preliminari, solo per queste persone noi diciamo affidati al giudice, prima fatti giudicare e poi assumere incarichi. Sono due cose diverse, gli incarichi di amministratore dall'incarico. Quindi può stare nel partito. Non solo può stare, ma sono orgoglioso che ci sia, perché persone che fanno il proprio dovere ne pagano le conseguenze. Dovremmo averne di più in Italia. In Italia sai cosa è successo da un po' di tempo? Che la colpa di quel che succede non è dei magistrati che scoprono i reati, non è dei delinquenti che fanno i reati, ma dei magistrati che la scoprono. Non può come dire che il tumore, la colpa del è quando il medico scopre il tumore in ospedale, non è del tumore ma del medico. La ringrazio, buona giornata Antonio Di Pietro, grazie. Leader dell'Italia dei Valori, e ci fermiamo qui per pubblicità e meteo, e poi parliamo del canone della RAI che il ministro Romani vorrebbe legare alla bolletta della luce. Avete un contratto di bolletta della luce tutti gli italiani? Tutti, 100%. Pagate il canone della RAI, e se uno non ha la TV siete voi a dover dimostrare che non avete la TV. Che ne pensate? Una scelta giusta? Il nostro sondaggio tra poco, se volete 800 24 00 24. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qua. Per i vostri messaggi 349-238-6666, il tema del nostro sondaggio è il canone della RAI che il ministro Romani, con un annuncio ieri, per la verità non è una novità, ha detto vogliamo legare alla bolletta elettrica. Hai la bolletta elettrica? Paghi il canone della RAI, perché si presume che se hai una bolletta, una fornitura elettrica in casa, hai un televisore. E dunque è una scelta giusta? Questa è la domanda che ci poniamo. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E il ministro Romani l'ha detto così. Chi non ha la televisione, ci dirà: non ho il televisore e quindi non paga. Se invece uno ha la fornitura di energia elettrica, deve pagare il canone, perché si presume che abbia la TV. L'inversione dell'onere della prova, dicono i detrattori di questa proposta. Tra l'altro io ho rispolverato, l'idea non è nuova. 2005, un'intervista all'allora membro del CDA della RAI, Carlo Rognoni: come contrastare l'evasione del canone della RAI? Basta fare così, metterlo nella bolletta dell'Enel. Insomma, l'idea, come detto, non è davvero nuova, ma è stata rilanciata. Ne parliamo con due parlamentari, entrambi sono in Commissione Vigilanza RAI. Giancarlo Mazzucca del Popolo della Libertà, buongiorno onorevole. Buongiorno, buongiorno a voi. E voglio salutare Davide Caparini della Lega, l'abbiamo richiamata. Caparini, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a lei. Colui che in maniera tranquilla dice io da anni non pago il canone, faccio obiezione fiscale e dunque non me ne vergogno e non pago il canone della RAI. Sì, adesso per continuare la mia protesta devo costringere mia moglie a comprare le candele. deve anche fare il distacco dell'elettricità. Io sono un montagnino siamo abituati a autoprodurre l'acqua. Va bene, stufa e candele. Saluto anche Marco Mele del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno. Qua c'è l'onorevole Mazzucca che tra l'altro oggi ne scrive sul Quotidiano Nazionale, è stato anche direttore del Quotidiano Nazionale, e dice: oh, è una mia battaglia da 2 anni e finalmente il ministro Romani ora la rilancia. E c'è Davide Caparini che è il capo degli obiettori fiscali al canone. Intanto, Marco, quanto è l'evasione del canone della RAI, che è una tassa molto molto evasa? Dunque, l'evasione è stimata, in realtà non la sa bene nessuno quale sia, insomma è stimata intorno al 25% delle famiglie. Ecco, questo intanto, perché poi il problema principale poi sarà questo: il canone si paga per famiglia in realtà. Sì. E questo sarebbe, ve lo dico subito, che il problema principale poi quando si andrà ad applicare, uno dei problemi principali diciamo sarà questo, che se la famiglia ha una seconda casa, questa seconda casa non paga oggi questa seconda casa paga la bolletta elettrica. Effettivamente non sarà facile hai già posto un punto interessante. È chiaro, se uno ha due case paga un unico canone, ma se uno lega all'allaccio elettrico e poi se uno è in affitto per esempio, chi deve pagare il canone? Cioè chi, il proprietario della bolletta oppure no? No, se è in affitto paga la famiglia, la famiglia che è in affitto, Sì, perché il canone è un'imposta sul possesso del televisore, no? Sì, questo diciamolo sempre, cioè non è, perché molti ci dicono ma io guardo solo Sky. No, se hai un televisore è una tassa legata al possesso. Uno ha la TV e paga anche se la tiene spenta. Allora, intanto, onorevole Mazzucca, lei si sente vittorioso oggi, dice: oh, finalmente dopo 2 anni quasi si posso tirare un respiro di sollievo. Certe volte si dice ne valsa la pena fare il parlamentare, no, per questa battaglia che lei porta avanti. Così. Intanto però volevo un attimo risolvere il dubbio sollevato dal collega giornalista. È chiaro che si riferisce alla bolletta della luce, Enel o altra compagnia elettrica, soltanto per la casa di residenza, quindi gli accertamenti varranno dove è la famiglia, la residenza. Perfetto. Se io ho la casa al mare, chiaramente su quella casa non pago, se no altrimenti pagherei 2 volte, chiaro. Senta, uno spirito liberale come Filippo Facci, oggi in prima pagina di Libero verga un editoriale molto duro a dire: beh, ci mancava solo questa, soprattutto bella quella dell'inversione dell'onere della prova, che bel garantismo, cioè hai la corrente vuol dire che si presume che tu abbia un televisore, se no me lo devi dire tu che non ce l'hai. Allora, ha ragione dal punto di vista di principio Facci, ma il problema è che l'evasione del canone RAI raggiunge addirittura il 30%. Allora, o noi ci consentiamo di ridurre queste sacche di evasione che i soliti furbetti continuano a non pagare, o se no andremo avanti in una situazione sempre peggiore. Purtroppo è un male necessario, io dico, anche perché riuscendo a far pagare la bolletta a chi non paga, e soprattutto al sud le sacche di evasione del canone RAI, del canone televisivo, sono assolutamente imponenti. È chiaro che poi si può, infatti il ministro Romani l'ha già previsto, dal 2012 ridurre il canone per tutti, quindi è un modo per aiutare pagare tutti, tutti per solo, pagare meno, insomma, pagare tutti per pagare meno, non solo, ma per le famiglie meno abbienti, per i pensionati che hanno la televisione l'unico mezzo di informazione, eccetera. Ecco, anche pensare a abolire il canone o comunque avere un'esenzione. Su questa frase che io ho ripetuto, ma l'ha detta lei, è pagare tutti per pagare meno, so già che è il mio amico e collega che sta arrivando, Oscar Giannino, sarà sobbalzato dicendo: non è così, smettetela, non è che se pagano tutti si abbasserà mai il canone, come qualunque tassa. È già previsto. Sentiamo, dal 2012. Tra i furbetti, lei forse non dovrebbe mettere l'onorevole Caparini, perché l'onorevole Caparini non è furbetto, è manifesto, è dichiarato, insomma, dice. Ma lui non è un furbetto, lui lo fa per una battaglia di principio. Sì, lo fa per una battaglia di principio. Alcune ragioni, però dovrebbe pagare. Onorevole Caparini, lei che non lo paga, che ne pensa di questa uscita, di questa iniziativa del ministro Romani? Beh, il titolo della prima pagina di oggi sarebbe Italia come la Grecia, nel senso che in Grecia è così, è vero. Esatto. Quindi lusinghiero che compiamo un paese come la Grecia. Devo dire che prima di tutto mi devono convincere sul fatto che la RAI è l'industria culturale del paese, e quindi il canone RAI non serve semplicemente a coprire i buchi, gli enormi buchi che sono stati recentemente denunciati nella sua amministrazione. E quindi che gli 1,6 miliardi di euro che ogni anno vengono girati alle casse della RAI invece sono ben gestiti e utilizzati per finanziare il servizio pubblico e non per pagare i 13.000 dipendenti, i 45.000 contratti di collaborazione. E poi mi devono altrettanto convincere che il servizio pubblico è questa cosa qui, quindi va finanziato chi lo fa, ovvero il concessionario della RAI, e non il contenuto. E in merito ai contenuti sappiamo benissimo che insomma ci sono le emittenti locali, ci sono altri soggetti sul mercato, e qui siamo in un paese in cui abbiamo fatto giustamente, stiamo tirando tutti la cinghia, tagli all'editoria, al cinema, al teatro, allo spettacolo, anche alle TV, alle radio locali, quindi anche vorrei anche capire come mai la RAI deve continuare a rimanere al di sopra di tutti. Questa è un'obiezione, tra l'altro, Marco Mele, è un'obiezione che spesso anche molti ascoltatori ci fanno, dire perché pagare un qualcosa che finanzia un servizio pubblico, ma chi stabilisce cos'è servizio pubblico ormai? Forse per quanto è nato il canone, ora la situazione è molto cambiata anche sul mercato televisivo. È un'obiezione valida, Marco, questa? È un'obiezione valida quanto già in parte però risolta, nel senso a norme vigenti con quello che è stato fatto, perché è stato fatto già dalla legge Gasparri di dire il canone deve finanziare solo i contenuti di servizio pubblico della RAI, e fin qua ma chi gli dice quali sono questi contenuti di servizio pubblico? È l'obiezione che fa Caparini. L'avrebbe detto l'autorità per le comunicazioni, l'autorità per le comunicazioni che ha deciso, in realtà in questa decisione dell'autorità per la comunicazione hanno messo come servizio pubblico tantissimi programmi che è anche discutibile che siano o meno di servizio pubblico, per esempio tutti quelli di sport. Allora che succede? Che attualmente se adesso venisse un dirigente della RAI, se arrivasse a radio, direbbe il canone non ci finanzia tutti i nostri programmi di servizio pubblico, certo. In parte li finanziamo con la pubblicità. Quindi noi vorremmo un canone elevato, dovrebbe essere elevato di circa tipo 20 euro l'anno per coprire tutti i costi del servizio pubblico. Questo a legge è un fatto di leggi, e infatti la proposta Romani è anche per rispondere indirettamente a questa richiesta RAI, perché nessun governo ovviamente mai di nessun tipo aumenterebbe il canone di 20 euro, però sì, dice gli introiti li avrai perché ti riduco l'evasione. Resta sempre il problema di capire che cos'è il servizio pubblico, e poi certo, ovviamente noi abbiamo un concessionario televisivo, da tempo e da anni si discute perché non diamo i soldi del canone a tutti quelli che fanno certi contenuti di servizio pubblico. No, ma è chiaro. D'altra parte in Europa in genere il servizio pubblico è uno solo. Ovviamente la BBC ha una certa qualità dei programmi che la RAI non ha, insomma sono tante le obiezioni che si possono fare, tante, no, ma certo, noi ci fermiamo per le informazioni sul traffico, poi ripartiamo da qualche ascoltatore. Detto che per il momento il 75% dei nostri ascoltatori dice no, non vogliamo questa iniziativa, questa innovazione del canone della RAI legato alla bolletta elettrica, che lo ripeto è una proposta che da anni viene rilanciata da vari anche consigli di amministrazione della RAI, ora è stata rilanciata dal ministro Romani. Tra poco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E allora che ne pensate della proposta del ministro Romani di legare il pagamento del canone RAI al contratto della fornitura elettrica? Hai l'elettricità, si presume che tu abbia un televisore, se no ci devi dire non ce l'ho e allora non paghi il canone. Gaspare da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Guardi, io non solo non sono d'accordo nel legare il canone RAI alla bolletta elettrica, ma sono sull'onta di dire togliamo il canone RAI, perché io mi ricordo che 10 anni fa e guardavo la RAI e non avevo le pause interruzioni pubblicitarie rispetto a Mediaset, e quindi avevo più un servizio di qualità ed ero contento di pagare come sto pagando tutt'oggi, attenzione, perché non ho mai evaso, anzi non pensavo di pagare di più per quelli che non stanno pagando. Allora dovrebbe, perché questo viene fatto per contrastare l'evasione, dovrebbe dire se questo mi porta a pagare di meno che paghino tutti. È fatto per contrastare l'evasione, ma anche quando loro rientrano dei soldi di questi signori che stanno evadendo, io non pago sicuramente di meno e di sicuro loro non riducono la pubblicità. Questo per avere un servizio un di più. Ecco. Lei dice però, Gaspare, in realtà l'onorevole Mazzucca ci ha detto che è prevista la riduzione del canone qualora pagassero tutti, ci fosse meno evasione, quindi poi il canone verrà abbassato. Antonio da Imola, buongiorno. Non Imola, Ventimiglia. Ventimiglia Imperia. E perché io l'ho messa? Sarà di passaggio. Perché IM, forse hanno preso IM per Imola. Ma forse sarà Imperia. Sarà di passaggio a Imola adesso, sì, no? volevo chiedere soltanto al ministro Romani se pensa che siamo ancora in uno stato di diritto. Che però il ministro Romani non c'è, gli faccia, questa domanda ideale. Sì, è la questione, perché se siamo ancora in uno stato di diritto, come un ministro dovrebbe sapere, è assurdo che sia io a dover dimostrare di non avere una televisione. È una questione di principio gravissima. Poi vorrei aggiungere una cosa: il fatto che il sud non paghi non è una ragione, come la stessa storia dell'assicurazione. Saranno loro che dovranno trovare il modo per far pagare, non scaricandolo su tutti quanti, su di noi. Musica per le orecchie dell'onorevole Caparini, credo, quella di Antonio, no? Mentre no? Musica per le sue orecchie, Caparini. Ma non c'è ombra di dubbio. Noi sosteniamo da tempo che deve essere il metodo di riscossione ammodernato. Ho capito, però Caparini, però non in questo modo. Però me lo faccia dire, ma il metodo di riscossione ammodernato, detto da uno che il canone non lo paga e dice non pagate il canone, cioè anche da uno che ha fatto più proposte in tempi diversi, partendo dalla fiscalità generale che sappiamo essere proporzionale, quindi commisurata al reddito, per il finanziamento del servizio pubblico generale. Io voglio sottolineare questo aspetto perché si confonde, c'è questa ambiguità di fondo, per cui si chiama una cosa con un nome canone RAI, che poi non corrisponde alla realtà perché è la tassa di possesso sull'apparecchio televisivo, sì, che finanzia solo un soggetto, mentre la legge, lo sappiamo benissimo, prevede che venga finanziato il servizio pubblico in generale. E quindi su questo bisogna fare chiarezza, perché si chiede del denaro ai cittadini e dopodiché lo si destina a un inganno. Che non è lo stesso per quello un inganno. Io vorrei, onorevole Mazzucca, ma davvero questa proposta, per la quale anche lei si batte da anni, secondo lei vedrà la luce? Perché non è una battuta il vedrà la luce legata alla bolletta. Mi è venuta di essere così. D'accordo meno. No. Qui si tratta di debellare un cattivo costume. Gli italiani non Ma si fa così, come ha detto l'ascoltatore. Non c'è altro modo, perché se si raggiunge il 30%, non ci sono altre strade alternative. Allora bisogna cercare in qualche modo di ridurre. Allora è chiaro che uno che non paga il canone in questo momento non è d'accordo, ma se no non continuiamo a essere i soliti italiani che non pagano, i furbi che continuano a essere favoriti e i soliti onesti che continuano a pagare anche per gli altri. In questo modo si cerca da una parte di aiutare chi è onesto, chi continua a pagare il canone come un buon cittadino deve fare, dall'altra parte si dà anche la possibilità di ridurre i costi della RAI, perché per esempio con i maggiori incassi che arrivano da questa mancata evasione, ecco, si può prevedere un abbassamento dei tetti pubblicitari in modo tale che maggiore pubblicità possa andare ai quotidiani, all'editoria, che in questo momento soffre una gravissima crisi. E qualcuno dice, qualche maligno dice, a Mediaset, così si favorisce. No, io parlo di quotidiani, parlo di giornali, parlo di giornali di carta stampata, quindi è un'altra cosa. Detto questo, il problema appunto è superare, è chiaro che dà fastidio a tutti pagare, ma è l'unico modo per estirpare un male. D'altra parte ha ragione Caparini quando dice che di fronte a un canone pagato molte volte il servizio non è altrettanto confacente, altrettanto buono. Allora occorre chiedere come contropartita alla RAI che si faccia rispettare quei principi di libertà, obiettività, completezza e di pluralismo devono essere proprie. Ecco, allora, di fronte a un maggior incasso, un maggior introito, la RAI deve garantire un servizio migliore. Su quello sono d'accordo. Servizio migliore. Marco Mele, per concludere, c'è anche tutto il dibattito sulle trasmissioni, appunto. Ricordo di recente la campagna, non so, del Libero, il giornale, quando è apparso Santoro, credo, una trasmissione, non so per quale motivo, era partita la campagna disdiciamo il canone della RAI, no? C'è anche il tema sulla politicizzazione delle trasmissioni. Beh, il tema sulla politicizzazione delle trasmissioni è il tema sulla politicizzazione, terribile parola, della RAI stessa, cioè bisogna intervenire alla radice, allora, cioè non è una trasmissione, un'altra trasmissione, perché peraltro allora uno potrebbe dire anche tutti i telegiornali lo sono, della RAI. Il problema è chi nominano i vertici dell'azienda, quale autonomia e indipendenza abbia la RAI rispetto alla politica e quali trasmissioni, quindi quali in base a questa autonomia e questa indipendenza, quanto le trasmissioni RAI siano libere da condizionamenti politici. In questo momento la RAI ha un tipo di gestione, di consiglio di amministrazione, di vertice totalmente dipendente dalla politica e in particolare direi dall'esecutivo oltre che dal Parlamento. Questa è una cosa non secondaria alla luce anche delle sentenze della Corte Costituzionale, ma è un altro problema. Sì, no, ma certo, è un altro problema che magari tratteremo più avanti. Io vi ringrazio, Davide Caparini, onorevole della Lega, e Giancarlo Mazzucca, onorevole del Popolo della Libertà, e il nostro Marco Mele del Sole 24 Ore, sempre molto attento alle dinamiche di televisive, Rai e non solo, sul Sole. Grazie a tutti, con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi do appuntamento a lunedì, e ora Oscar Giannino.